le ragioni di questi progetti sono diciamo la confisca delle risorse idriche da parte degli israeliani, e che rendono molto difficile per i palestinesi soddisfare il fabbisogno di acqua, e anche l'aumento della povertà, soprattutto negli ultimi anni, da quando è iniziata la seconda intifada. In questo momento diciamo le nostre attività sono abbastanza ferme, perché soprattutto negli ultimi giorni, a seguito all'uccisione di Sheikh Yassin, la ragione principale è che è difficile muoversi nei territori per noi e soprattutto per il nostro personale locale, a causa delle chiusure imposte dall'esercito israeliano. Il nostro ufficio si trova in una zona di Gerusalemme Est, dove gli israeliani stanno costruendo il muro, proprio il muro alto di 9 metri di cemento armato. Il muro si è fermato al momento a una ventina di metri dal cancello della nostra strada. Quando sarà finito, probabilmente il nostro ufficio, che fino ad ora è sempre stato a Gerusalemme, si troverà invece chiuso fuori da Gerusalemme e dentro la Cisgiordania. Probabilmente in questo modo condivideremo ancora di più, diciamo, le sorti di molti palestinesi. La differenza è che noi avremo sempre l'opzione di lasciare l'ufficio e muoverci di nuovo all'interno di Gerusalemme, mentre per molti dei nostri vicini di casa questo risulterà impossibile, perderanno l'accesso ai loro posti di lavoro, alle scuole, agli ospedali.